Gli amanti vedevano avvicinarsi con terrore il momento della separazione ed entrarono nella fase dell'amore osteggiato. Presero in considerazione l'ipotesi di fuggire in Brasile o di suicidarsi insieme, ma non menzionarono mai la possibilità di sposarsi. Alla fine la voglia di vivere ebbe la meglio sulle inclinazioni tragiche e dopo l'ultimo spettacolo presero una carrozza e se ne andarono in vacanza nell'Inghilterra del Nord in una locanda di campagna. Avevano deciso di godersi quei giorni di anonimato prima che Karl Brezner si recasse in Italia per onorare altri contratti. Rose l'avrebbe poi raggiunto a Vienna una volta che lui avesse trovato un appartamento appropriato, si fosse organizzato e le avesse spedito i soldi per il viaggio. Stavano facendo colazione sotto una tenda nella terrazza dell'alberghetto, con le gambe avvolte da una coperta di lana, perché il vento della costa era freddo e tagliente, quando vennero interrotti da Jeremy Somers, indignato e solenne come un profeta. Rose aveva lasciato un tale numero di indizi che per il fratello maggiore non era stato difficile localizzarla e raggiungerla fino a quella remota stazione balneare. Quando lo vide, Rose gridò di sorpresa più che di spavento, perché era ringalluzzita dall'agitazione dell'amore. In quell'istante si rese conto per la prima volta di ciò che aveva commesso e il peso delle conseguenze le si rivelò in tutta la sua enormità. Si levò in piedi, decisa a difendere il diritto a vivere come meglio credeva, ma il fratello non le diede tempo di parlare e si rivolse direttamente al tenore. «Lei deve una spiegazione a mia sorella. Immagino non le abbia detto che ha sposato e che ha due figli», affrontò il seduttore. Questa era l'unica cosa che Karl Brezner aveva omesso di raccontare a Rose. Avevano parlato fino alla sazietà. Lui le aveva affidato persino i più intimi particolari degli amori precedenti, senza tralasciare le stranezze del marchese di Sade, raccontategli dal suo mentore, la francese dagli occhi di tigre, perché Rose aveva dimostrato una curiosità morbosa nel voler sapere quando, con chi e specialmente come aveva fatto l'amore dai 10 anni fino al giorno in cui aveva conosciuto lei. E lui le aveva rivelato tutto, senza scrupoli, non appena si era accorto di quanto le piacesse ascoltare tutto ciò e di come lo includesse nella propria teoria e nella pratica. Ma della sposa e dei figli non aveva fatto parola, per compassione nei confronti di quella bella vergine che si era data a lui senza condizioni. Non voleva distruggere la magia di quell'incontro. Rose Summers meritava di godersi il suo primo amore a piene mani. «Deve riparare l'offesa!» lo sfidò Jeremy Somers attraversandogli il volto con un ceffone. Karl Brezner era un uomo di mondo e non aveva intenzione di commettere la barbarie di battersi in duello. Capì che era giunto il momento di battere ritirate e si dispiacque di non poter stare qualche momento da solo con Rose per spiegarle la situazione. Non voleva lasciarla con il cuore a pezzi e con l'idea che lui l'avesse sedotta in cattiva fede per poi abbandonarla. Aveva bisogno di dirle ancora una volta quanto davvero l'amava e che gli dispiaceva di non essere libero per realizzare i loro sogni, ma lesse sul volto di Jeremy Somers che non glielo avrebbe concesso. Jeremy prese per un braccio la sorella, che sembrava inebetita, e la condusse con decisione alla carrozza senza darle l'opportunità di congedarsi dall'amante né di prendere il suo poco voluminoso bagaglio. La portò in Scozia, a casa di una zia, dove sarebbe dovuta rimanere fino a quando non fosse stato chiaro il suo stato. Se si fosse trattata della peggiore delle disgrazie, come Jeremy Somers aveva definito una gravidanza, la sua vita e l'onore della famiglia sarebbero stati distrutti per sempre. Non una parola a nessuno a questo proposito, né alla mamma né a John, intesi? Fu l'unica cosa che disse durante il viaggio. Rose trascorse alcune settimane nell'incertezza finché constatò di non essere incinta. La notizia le portò un soffio di indicibile sollievo, come se il cielo l'avesse assolta. Passò altri 3 mesi di punizione a lavorare a maglia per i poveri, a leggere e a scrivere di nascosto, senza versare una sola lacrima. Durante quel periodo rifletté sul suo destino e qualcosa le si mosse dentro perché, terminata la clausura in casa della zia, era un'altra persona. Solo lei si rese conto del cambiamento. Ricomparve a Londra identica a come se n'era andata, allegra, tranquilla, interessata al canto e alla lettura, senza il minimo accenno di rancore nei confronti di Jeremy per averla strappata alle braccia dell'amante o di nostalgia per l'uomo che l'aveva ingannata. Serafica nella sua capacità di ignorare la maldicenza e i visi contriti dei familiari. Superficialmente sembrava la stessa ragazza di prima. Nemmeno sua madre riuscì a scoprire una crepa nel suo contegno perfetto che lasciasse spazio a un rimprovero o a un consiglio. D'altronde la vedova non era in grado di aiutare la figlia o di proteggerla, un cancro la stava divorando rapidamente. L'unico mutamento nel comportamento di Rosa fu quella fisima di passare ore intere a scrivere, chiusa in camera. Riempiva con la sua minuscola grafia dozzine di quaderni che teneva sotto chiave. Siccome non cercò mai di spedire una lettera, Jeremy Somers, che temeva sopra ogni cosa lo scherno, smise di preoccuparsi per il vizio della scrittura e immaginò che la sorella avesse avuto il buon senso di dimenticare il nefasto tenore viennese. Lei invece non solo non l'aveva dimenticato, ma ricordava con precisione certosina ogni minimo dettaglio di quanto era successo e ogni parola detta o sussurrata. L'unica cosa che aveva cancellato dalla sua mente era la delusione di essere stata ingannata. La moglie e i figli di Carl Bretzner semplicemente sparirono senza trovare posto nell'immenso affresco dei suoi ricordi d'amore. Il ritiro in casa della zia in Scozia non fu sufficiente a evitare lo scandalo, ma siccome non si poterono confermare i sospetti, nessuno osò fare apertamente uno sgarbo alla famiglia. A uno riapparvero i numerosi pretendenti che la tormentavano prima, ma Rose li allontanò con il pretesto della malattia della madre. Ciò che si tace è come non fosse mai accaduto, sosteneva Jeremy Somers, disposto a sopprimere con il silenzio qualsiasi vestigia di quell'episodio. L'imbarazzante fuga di Rose rimase sospesa nel limbo delle cose da non nominare, per quanto a volte i fratelli facessero riferimenti che, pur mantenendo vivo il rancore, li univano nel segreto da condividere. Alcuni anni dopo, quando ormai a nessuno la vicenda importava più, Rose trovò la forza di raccontarla a John, agli occhi del quale aveva sempre svolto il ruolo di bambina viziata e innocente. Poco dopo la morte della madre, a Jeremy Somers fu offerto di farsi carico dell'ufficio della compagnia britannica di importazione ed esportazione in Cile. Partì con la sorella Rose, portandosi dietro il segreto intatto dall'altra parte del mondo. Arrivarono in Cile verso la fine dell'inverno 1830, quando Valparaíso era ancora un villaggio, ma esistevano già compagnie e famiglie europee. Rose considerò il Cile la sua penitenza e l'assunse stoicamente, rassegnata a pagare l'errore con quell'esilio irrimediabile, senza consentire a nessuno, e men che meno al fratello Jeremy, di sospettare quanto fosse disperata. La disciplina che le impediva di lamentarsi e di parlare anche nel sonno dell'amante perduto la sostenne quando le difficoltà la sopraffecero. Cercò di sistemarsi nell'hotel il meglio possibile, decisa a stare al riparo dalle raffiche di vento e dall'umidità perché si era diffusa un'epidemia di difterite che i barbieri del posto combattevano con inutili quanto crudeli operazioni chirurgiche praticate a coltellate. La primavera e poi l'estate placarono in parte la cattiva impressione che aveva del paese. Decise di dimenticare Londra e di trarre profitto dalla nuova situazione, malgrado l'ambiente provinciale e il vento di mare che le perforava le ossa anche nei mezzogiorni di sole. Convinse il fratello e quest'ultimo la compagnia della necessità di comprare una casa decente a nome dell'impresa e di farsi mandare i mobili dall'Inghilterra. La pose come una questione di autorevolezza e prestigio. Non era possibile che il rappresentante di un ufficio così importante alloggiasse in un albergo da 4 soldi. 18 mesi dopo, quando la piccola Eliza entrò nella loro vita, i due fratelli vivevano in una grande casa sul Cerro Alegre. Miss Rose aveva relegato l'amante in un compartimento stagno della memoria e si dedicava completamente a conquistare un posto di privilegio nella società in cui viveva. Negli anni successivi, Valparaíso si ampliò e si modernizzò alla stessa velocità con cui lei si lasciava alle spalle il passato e si trasformava nella donna esuberante dall'aria felice che 11 anni dopo avrebbe conquistato Jacob Toad. Il falso missionario non fu il primo a essere rifiutato, ma lei non aveva interesse a sposarsi. Aveva scoperto una formula straordinaria per continuare l'idilliaca storia d'amore con Karl Brezner, rivivendo ognuno dei momenti della loro incendiaria passione e altri deliri inventati nel silenzio delle sue notti nubili. L'amore. Nessuno meglio di Miss Rose poteva sapere cosa stava succedendo nell'anima ammalata d'amore di Eliza. Indovinò immediatamente l'identità dell'uomo, perché solamente un cieco poteva non accorgersi della correlazione tra lo stato confusionale della ragazza e la visita dell'impiegato di suo fratello con le casse del tesoro per Feliciano Rodriguez de Santa Cruz. Il suo primo impulso fu di scartare senza pensarci due volte un giovane tanto insignificante e spiantato, ma ben presto si rese conto di averne sentito anche lei il fascino pericoloso e di non riuscire a toglierselo dalla testa. Certo, al primo sguardo si era fissata sugli abiti rammendati e sul lugubre pallore, ma una seconda occhiata le era stata sufficiente per farle apprezzare l'aura tragica da poeta maledetto. Mentre ricamava furiosamente nella stanza del cucito, si scervellava su questo rivolgimento del destino che scombinava i suoi progetti di trovare a Eliza un marito compiacente e danaroso. I suoi pensieri erano una trama di macchinazioni per stroncare questo amore prima che nascesse, che andavano dal mandare Eliza come interna in una scuola per signorine in Inghilterra o in Scozia dalla sua vecchia zia, al vuotare il sacco con il fratello affinché si disfacesse dell'impiegato. Tuttavia, nel fondo del suo cuore e suo malgrado, covava il segreto desiderio che Eliza vivesse la sua passione fino all'estenuazione e compensasse così il tremendo vuoto che il tenore aveva lasciato 18 anni prima nella sua vita. Nel frattempo, per Eliza, le ore trascorrevano con terribile lentezza in un vortice di sentimenti confusi. Non sapeva se fosse giorno o notte, martedì o venerdì, se da quando aveva conosciuto quel giovane fossero passate ore o anni. Improvvisamente sentì che il sangue le diventava schiumoso e la pelle le si riempiva di ponfi che si dileguavano rapidamente e inspiegabilmente nello stesso modo in cui erano comparsi. Vedeva l'amato ovunque, nelle ombre degli angoli, nelle forme delle nuvole, nella tazza del tè e soprattutto nei sogni. Non sapeva come si chiamasse e non osava chiederlo a Jeremy Somers perché temeva di scatenare un'ondata di sospetti, ma per ore indugiava a immaginare un nome adatto a lui. Avvertiva un disperato bisogno di parlare con qualcuno del suo amore, di analizzare ogni particolare della breve visita del giovane, di speculare su ciò che si erano taciuti, su ciò che probabilmente si erano detti e su quanto si erano trasmessi con lo sguardo, con i rossori e le intenzioni, ma non c'era nessuno di cui fidarsi. Agognava una visita del capitano John Somers, quello zio con la vocazione da filibustiere, che era stato il personaggio più affascinante della sua infanzia, l'unico in grado di capirla e di aiutarla in un simile frangente. Non aveva il minimo dubbio circa il fatto che se Jeremy Somers fosse venuto a conoscenza della situazione avrebbe dichiarato una guerra senza quartiere al modesto impiegato della sua ditta. E quanto al comportamento di Miss Rose non era prevedibile. Decise che meno si sapeva in casa, più libertà di movimento avrebbe avuto lei e il futuro fidanzato. Non valutò mai la possibilità di non essere corrisposta con la stessa intensità di sentimenti, perché le pareva semplicemente impossibile che un amore di tali proporzioni avesse stordito solamente lei. La logica e la giustizia più elementari suggerivano che in qualche luogo della città anche lui fosse vittima del medesimo delizioso tormento. Eliza chiudeva gli occhi e allora era la mano di lui ad accarezzarla con la delicatezza di un uccello. Erano sue le labbra che lei baciava allo specchio, sua la vita che abbracciava con il cuscino, suoi i sussurri d'amore che il vento le portava. Lo vedeva apparire come una gigantesca ombra che si avventava su di lei per divorarla in mille modi stravaganti e sconvolgenti. Innamorato, demonio, arcangelo, non lo sapeva, non voleva svegliarsi e metteva in pratica con fanatica determinazione il dono appreso da mamma Fresia di entrare e uscire dai sogni a suo piacimento. Arrivò a dominare talmente quest'arte che l'amante illusorio appariva come una presenza reale. Poteva toccarlo, sentirne il profumo e la voce in modo perfetto, nitida e vicina. Se avesse potuto rimanere sempre addormentata, non avrebbe avuto bisogno d'altro, avrebbe potuto continuare ad amarlo dal suo letto per sempre, pensava. Si sarebbe estinta nel delirio di quella passione se Joaquín Andieta non si fosse presentato una settimana dopo per ritirare i colli del tesoro che andavano spediti a Nord al cliente. La sera prima lei seppe che sarebbe venuto e non per istinto o premonizione, come alcuni anni dopo avrebbe insinuato raccontandolo a Tao Chien, ma perché all'ora di cena aveva sentito Jeremy Somers dare istruzioni a sua sorella e a mamma Fresia. Verrà a ritirare la merce lo stesso impiegato che l'ha portata, aggiunse poi, senza sospettare quale uragano di emozioni le sue parole, per motivi diversi, stessero scatenando nelle tre donne. La ragazza passò la mattina sulla terrazza a scrutare la strada che dalla collina portava a casa loro. Circa mezzogiorno vide arrivare il carro trainato da 6 muli, seguito dai lavoratori armati a cavallo. Sentì una pace gelida, come fosse morta, e non si accorse che Miss Rose e mamma Fresia la stavano osservando dalla casa. Tanta fatica per educarla e si innamora del primo sfaccendato che passa per strada, borbottò tra i denti Miss Rose. Aveva deciso di fare il possibile per impedire il disastro, ma senza tanta convinzione perché conosceva fin troppo bene l'irriducibile tempra del primo amore. Consegnerò io la merce e di a Eliza di entrare in casa e non lasciarla uscire per nessun motivo, ordinò. E come pensa che possa impedirglielo? Rinchiudila se necessario. Oh, la rinchiuda lei se è capace, non mi metta in mezzo, replicò e uscì trascinando le ciabatte. Risultò impossibile impedire che la ragazza si avvicinasse a Joaquín Andieta e gli consegnasse una lettera. Agì a viso aperto, guardandolo negli occhi e con una determinazione talmente fiera che Miss Rose non ebbe il fegato di intercettarle, mamma Fresia, quello di frapporsi. Le due donne capirono allora che il maleficio era ben più potente di quanto avessero immaginato e che non ci sarebbero state porte sprangate o candele benedette sufficienti per scongiurarlo. Anche il giovane aveva trascorso quella settimana con l'ossessione del ricordo della ragazza che credeva figlia del datore di lavoro, Jeremy Somers, e di conseguenza assolutamente inaccessibile. Non sospettava di averla tanto impressionata e non gli era passato per la mente che, offrendogli quel memorabile bicchiere di succo durante l'incontro precedente, lei gli stesse dichiarando il suo amore. Per questo si prese uno spavento formidabile quando lei gli consegnò una busta chiusa. Sconcertato, la mise in tasca e continuò a sorvegliare le operazioni di carico della merce sul carro, con le orecchie in fiamme, gli abiti madidi di sudore e brividi di febbre che gli percorrevano la schiena. In piedi, immobile e in silenzio, Eliza lo guardava fisso a pochi passi di distanza, facendo finta di non notare l'espressione furibonda di Miss Rose e quella compunta di mamma Fresia. Quando l'ultima cassa venne assicurata sul carro e i muli ebbero fatto mezzo giro per iniziare la discesa della collina, Joaquín Andieta si scusò con Miss Rose per il disturbo, salutò Eliza inclinando appena la testa e se ne andò più in fretta che poté. La missiva di Eliza recava solo 2 righe in cui indicava dove e come incontrarsi. Lo stratagemma era di una semplicità e audacia tali da poterla tranquillamente far confondere con una fuoriclasse della sfacciataggine. Joaquin si doveva presentare dopo 3 giorni, alle 9 di sera, all'eremo della Vergine del Perpetuo Soccorso, una cappella eretta sul Cerro Alegre, non lontana da casa Somers per proteggere i viandanti. Eliza aveva scelto il luogo per la vicinanza e la data perché cadeva di mercoledì. Miss Rose, mamma Fresia e la servitù sarebbero stati impegnati con la cena e se si fosse allontanata per un attimo nessuno lo avrebbe notato. Dalla partenza del risentito Michael Stewart non c'era più motivo per i balli, né l'inverno prematuro si accordava a tali attività, ma Miss Rose aveva mantenuto vivo il rituale per tacitare le chiacchiere che circolavano sul suo conto e su quello dell'ufficiale di marina. Sospendere le serate musicali in assenza di Stewart equivaleva a confessare che l'unico motivo per organizzarle era lui. Alle 7 Joaquín Andieta si era già appostato e attendeva con impazienza. Da lontano vide il fulgore della casa illuminata, la sfilata di carrozze con gli invitati e i lumi accesi dei cocchieri che aspettavano sulla strada. Un paio di volte si dovette nascondere dalle guardie che passavano a controllare le lampade dell'eremo spente dal vento. Si trattava di una piccola costruzione rettangolare di mattoni che culminava in una croce di legno dipinto appena un po' più grande di un confessionale e che custodiva un'immagine in gesso della Vergine. C'era un vassoio con file di candele votive spente e un'anfora con fiori secchi. Era una notte di luna piena, ma il cielo era attraversato da nuvoloni che a tratti coprivano completamente il chiarore lunare. Alle 9 in punto avvertì la presenza della ragazza e ne distinse la sagoma avvolta dalla testa ai piedi da una mantella scura. «La stavo aspettando, signorina», fu l'unica frase che gli venne in mente di farfugliare sentendosi un idiota. «Io ti ho sempre aspettato», replicò lei senza la minima esitazione. Si tolse la mantella e Joaquin vide che era vestita da festa. Portava la gonna arrotolata e sandali ai piedi. In mano teneva le calze bianche e le scarpe di camoscio che non voleva infangare per strada. I capelli neri con la riga in mezzo erano raccolti ai lati della testa in trecce legate con nastri di raso. Si sedettero in fondo all'eremo sulla mantella che lei appoggiò per terra, nascosti dietro alla statua, in silenzio, molto vicini ma senza toccarsi. Per un lungo momento non osarono guardarsi nella dolce penombra, storditi dalla reciproca vicinanza, respirando la stessa aria e sentendosi ardere nonostante le raffiche di vento che minacciavano di lasciarli al buio. «Mi chiamo Eliza Somers», disse infine. «E io, Joaquin Andieta», rispose lui. «Pensavo che ti chiamassi Sebastian». «Perché?» «Perché assomigli a San Sebastiano, il martire. Non frequento la chiesa papista, sono protestante, ma qualche volta mamma Fresia mi ci ha portata ad assolvere i voti». E lì si concluse la conversazione perché non seppero cos'altro dirsi. Si scambiavano sguardi di sbieco e arrossivano contemporaneamente. Eliza percepiva il suo odore di sapone e sudore, ma non osava avvicinare il naso come avrebbe desiderato. Gli unici rumori nell'eremo erano il sussurro del vento e dei loro respiri agitati. Dopo pochi minuti lei annunciò che doveva tornare a casa prima che notassero la sua assenza e si congedarono stringendosi la mano. Lì si sarebbero incontrati nei mercoledì successivi, sempre a orari diversi e per brevi intervalli. In ognuno di questi entusiasmanti incontri procedettero a passi da gigante nei deliri e nei tormenti d'amore. Si raccontarono il minimo indispensabile, frettolosamente, perché le parole sembravano una perdita di tempo e presto si presero le mani, continuando a parlare, i corpi sempre più vicini a mano che si avvicinavano le anime, fino a che la sera del quinto mercoledì si baciarono sulla bocca. Prima a tentoni, poi esplorando e alla fine perdendosi nel piacere fino a liberare completamente il fervore che li consumava. A quel punto si erano già scambiati succinti riassunti dei 17 anni di Eliza e dei 21 di Joaquin. Avevano dibattuto dell'improbabile cesta con lenzuola di batista e copertina di visone, come anche della scatola di sapone di Marsiglia, e per Andietta era stato un sollievo sapere che non era figlia di nessuno dei Somers e che le origini di Eliza erano incerte quanto le sue, anche se comunque un abisso sociale ed economico li separava. Eliza venne a sapere che Joaquin era il frutto di un amore passeggero. Il padre aveva tagliato la corda alla stessa velocità con cui aveva piantato il seme e il bambino era cresciuto senza conoscerne il nome, con il cognome della madre e marchiato dalla condizione di bastardo che lo avrebbe limitato a ogni passo della sua vita. La famiglia aveva espulso dal suo seno la figlia disonorata e aveva ignorato il bambino illegittimo. I nonni e gli zii, commercianti e funzionari di una classe media impantanata in pregiudizi, vivevano nella stessa città, a pochi isolati di distanza, ma non si incrociavano mai. La domenica si recavano alla stessa chiesa, ma a orari diversi perché i poveri non assistevano alla messa di mezzogiorno. Segnato da quello stigma, Joaquin non aveva giocato negli stessi giardini né era stato educato nelle stesse scuole dei cugini, ma aveva utilizzato i vestiti e i giocattoli che loro scartavano e che una zia compassionevole faceva pervenire per strade tortuose alla sorella ripudiata. La madre di Joaquin Andieta era stata meno fortunata di Miss Rose e aveva pagato molto più cara la sua debolezza. Le due donne avevano quasi la stessa età, ma mentre l'inglese mostrava un aspetto giovanile, l'altra era consumata dalla miseria, dal deperimento e dalla sua triste occupazione, ricamare corredi da sposa a lume di candela. La cattiva sorte non ne aveva intaccata la dignità e aveva quindi educato il figlio sugli inflessibili codici dell'onore. Joaquin aveva imparato molto presto a camminare a testa alta e a sfidare qualsiasi accenno di scherno o di compatimento. «Un giorno riuscirò a portar via mia madre da quella casaccia», si ripromise Joaquin nei sussurri dell'eremo. «Le darò una vita dignitosa come quella che aveva prima di perdere tutto». «Non ha perso tutto, ha un figlio», replicò Eliza. «Io sono stata una disgrazia». «Oh, la disgrazia è stata innamorarsi di un uomo cattivo. Tu sei la redenzione», affermò lei con risolutezza. Gli appuntamenti dei due giovani erano molto brevi e non si svolgevano mai alla stessa ora, così Miss Rose non riuscì mai a scoprirli, non potendo mantenere la vigilanza notte e giorno. Sapeva che alle sue spalle stava succedendo qualcosa, ma non arrivò a essere tanto perfida da chiudere Eliza sotto chiave o da mandarla in campagna, come il dovere le suggeriva, e si astenne dal confidare i suoi sospetti al fratello Jeremy. Immaginava che Eliza e l'innamorato si scambiassero delle lettere, ma non riuscì a intercettarne nessuna, nonostante avesse messo in allerta tutta la servitù. Le lettere c'erano davvero ed erano di un'intensità tale che se Miss Rose le avesse viste sarebbe rimasta di stucco. Joaquin non le spediva, ma le consegnava a Eliza a ogni incontro. In esse dichiarava con espressioni febbrili ciò che a quattro occhi non osava per orgoglio e per pudore. Lei le nascondeva in una scatola 30 centimetri sottoterra nel piccolo orto di casa, dove giornalmente si fingeva occupata con le piante di erbe medicinali di mamma Fresia. Quelle pagine, rilette migliaia di volte nelle pause rubate, costituivano il principale alimento della sua passione perché mettevano in luce un aspetto di Joaquin Andieta che non si rivelava quando erano insieme. Sembravano scritte da un'altra persona. Quel giovane altero, sempre sulla difensiva, ombroso e tormentato, che l'abbracciava con foga e immediatamente la respingeva come se toccandola si fosse scottato, per iscritto dischiudeva la propria anima e descriveva i propri sentimenti con l'intensità di un poeta. Più tardi, quando Eliza avrebbe seguito per anni le tracce imprecise di Joaquin Andieta, quelle lettere sarebbero state il suo unico aggancio alla verità, la prova inconfutabile che quell'amore sfrenato non era stato un parto delle sue fantasie d'adolescente, ma era realmente esistito come breve benedizione e lungo supplizio. Dopo il primo mercoledì all'eremo, sparirono in Eliza gli attacchi di colica. E niente nel suo comportamento e nell'aspetto lasciò trasparire il suo segreto, salvo il folle luccichio degli occhi e ricorrere più frequentemente al dono di diventare invisibile. A volte dava la sensazione di trovarsi in luoghi diversi contemporaneamente. Lasciava tutti confusi e incapaci di ricordare dove e quando l'avessero vista, ma appena iniziavano a chiamarla, lei si materializzava con l'aria di chi ignora di essere cercato. In altre occasioni invece si trovava nella stanza del cucito con Miss Rose o a preparare una pietanza con mamma Fresia, ma era diventata talmente trasparente che nessuna delle due donne aveva la sensazione di vederla. La sua presenza era leggera, quasi impercettibile, e quando si assentava nessuno se ne accorgeva, se non diverse ore dopo. «Sembri uno spirito, sono stufa di cercarti, non voglio che tu esca di casa e che ti allontani dalla mia vista», le ordinava ripetutamente Miss Rose. «Non mi sono mossa di qua in tutto il pomeriggio», replicava Eliza impavida, apparendo dolcemente in un angolo con un libro o un ricamo in mano. «Fai un po' di rumore, bambina mia, per carità! Come faccio a vederti se sei più silenziosa di un coniglio?» aggiungeva a sua volta mamma Fresia. Lei diceva di sì e poi faceva quel che le pareva, ma si ingegnava di sembrare obbediente per rimanere nelle loro grazie. In pochi giorni acquisì una sorprendente perizia nell'ingarbugliare la realtà, come se avesse passato tutta la vita a occuparsi di arti magiche. Vista l'impossibilità di coglierla in contraddizione o di mettere a nudo una bugia, Miss Rose optò per guadagnarne la confidenza e iniziò ad alludere spesso ad argomenti amorosi. I pretesti non ne mancavano, pettegolezzi sulle amiche, letture romantiche condivise o libretti delle nuove opere italiane che imparavano a memoria, ma Eliza non si lasciava scappare una sola parola che tradisse i suoi sentimenti. Miss Rose cercò allora invano per la casa indizi delatori, frugò tra la biancheria e nella camera della ragazza, mise sottosopra la sua collezione di bambole di carillon, i libri e i quaderni, ma non riuscì a trovare il suo diario. Se anche ci fosse riuscita, sarebbe rimasta delusa perché in quelle pagine non c'era menzione alcuna di Joaquín Andieta. Eliza scriveva solo per ricordare. Il diario conteneva di tutto, dai sogni ricorrenti all'infinita lista di ricette di cucina e di consigli domestici, quali il modo di ingrassare una gallina o di togliere una macchia d'unto. C'erano anche speculazioni sulla sua nascita, sul corredino lussuoso e la scatola di sapone di Marsiglia, ma non una parola su Joaquín Andieta. Non aveva bisogno di un diario per ricordarlo. Solo diversi anni dopo avrebbe cominciato a raccontare su quelle pagine il suo amore del mercoledì. Finalmente, una sera, i due giovani non si trovarono all'eremo, bensì nella residenza dei Somers. Per giungere a quella decisione, Eliza passò attraverso il tormento di dubbi infiniti perché capiva che si trattava di un passo definitivo. Solo per il fatto di trovarsi in segreto, senza vigilanza, avrebbe perso l'onore, il più prezioso tesoro di una ragazza senza il quale non c'era futuro possibile. Una donna senza virtù non vale nulla, non potrà mai diventare una sposa e una madre, tanto vale che si leghi una pietra al collo e si butti in mare. Era un chiodo su cui avevano battuto e ribattuto. Pensò che non avrebbe avuto attenuanti per l'errore che stava commettendo, perché agiva con calcolo e premeditazione. Alle 2 del mattino, quando tutta la città era sprofondata nel sonno, fatta eccezione per le guardie che facevano la ronda scrutando nel buio, Joaquín Andieta trovò il modo di introdursi come un ladro dalla terrazza della biblioteca, dove c'era Eliza ad attenderlo in camicia da notte, scalza, tremante di freddo e di ansia. Presolo per mano, lo condusse alla cieca per la casa fino a un guardaroba in cui veniva riposto in grandi armadi il vestiario della famiglia e in diverse scatole i materiali per abiti e cappelli usati e riusati da Miss Rose nel corso degli anni. Per terra, avvolti in lenzuola, venivano mantenuti distesi i tendaggi del salone e della sala da pranzo in attesa della stagione successiva. A Eliza parve il luogo più sicuro lontano dalle altre camere. A ogni modo, per precauzione, aveva aggiunto della valeriana nel bicchiere di anisetta che Miss Rose beveva prima di andare a letto e nel brandy che Jeremy sorseggiava mentre fumava un sigaro cubano dopo cena. Conosceva ogni centimetro della casa, sapeva esattamente dove il pavimento scricchiolava e come aprire le porte senza che cigolassero. Poteva guidare Joaquina al buio senza altra luce che quella della memoria e lui la seguì, docile e pallido, per la paura, sordo alla voce della coscienza mescolata a quella della madre che gli ricordava implacabile il codice d'onore di un uomo per bene. Non farò mai a Eliza quello che mio padre ha fatto a mia madre, si ripeteva mentre avanzava a tastoni per mano alla ragazza, sapendo che qualsiasi scrupolo era inutile perché già era stato vinto da quel desiderio imperioso che non lo lasciava in pace da quando l'aveva vista per la prima volta. Nel frattempo Eliza si dibatteva tra le voci ammonitrici che le rimbombavano in testa e l'impulso dell'istinto con la sua straordinaria capacità di ammaliare. Non aveva le idee chiare circa quello che sarebbe successo nella stanza degli armadi, ma vi si dirigeva sapendo di essersi già arresa. La casa dei Somers, sospesa nell'aria come un ragno alla mercé del vento, non la si riusciva a mantenere calda, nonostante i bracieri a carbone che la servitù teneva accesi per 7 mesi all'anno. Le lenzuola erano sempre umide a causa del vento continuo proveniente dal mare e si dormiva con bottiglie d'acqua calda vicino ai piedi. L'unico luogo sempre tiepido era la cucina, dove il forno a legna, un enorme marchingegno dai molteplici usi, non veniva mai spento. D'inverno il legno scricchiolava, le assi si sollevavano e lo scheletro della casa sembrava sul punto di iniziare a navigare come un'antica fregata. Miss Rose non familiarizzò mai con le tempeste del Pacifico, come del resto non riuscì mai ad abituarsi ai tremori. I veri terremoti, quelli che mandavano la terra a gambe all'aria, si verificavano più o meno ogni 6 anni. In quelle occasioni lei aveva dimostrato un sorprendente sangue freddo, ma quelle scosse giornaliere che davano una scrollata alla vita la mettevano di pessimo umore. Non volle mai collocare la porcellana e le stoviglie su mensole a rasoterra come facevano i cileni. E quando il mobile della sala da pranzo traballava e i piatti cadevano in pezzi, malediceva a squarciagola il paese. Il guardaroba, in cui Eliza e Joaquin si amarono sopra il grande involto di tende di cretonne a fiori, che d'estate sostituivano i pesanti tendaggi di velluto verde del salone, si trovava a pian terreno. Fecero l'amore, circondati da armadi solenni, scatole di cappelli e involti contenenti i vestiti primaverili di Miss Rose. Né il freddo né l'odore di naftalina li scoraggiarono, perché viaggiavano più in alto degli inconvenienti pratici, del timore delle conseguenze e della loro stessa goffaggine da cuccioli. Non sapevano come fare, ma se lo inventarono strada facendo, frastornati e confusi, in completo silenzio, guidandosi reciprocamente senza molta scioltezza. A 21 anni lui era vergine come lei, a 14 aveva deciso di farsi sacerdote per compiacere sua madre, ma a 16 si era iniziato alle letture liberali, si era dichiarato nemico dei preti, anche se non della religione, e aveva deciso di mantenersi casto fino a quando non avesse realizzato il proposito di togliere la madre dalla casaccia. Gli sembrava una ricompensa minima per gli innumerevoli sacrifici di lei. Nonostante la verginità e la terribile paura di essere sorpresi, i giovani furono in grado di trovare al buio quanto stavano cercando. Slacciarono bottoni, sciolsero nodi, si spogliarono dei pudori e si ritrovarono nudi, a bersi l'aria reciprocamente. Aspirarono fragranze straordinarie, cercarono di far ordine nel coscienzioso affanno di decifrare gli enigmi, di raggiungere la profondità dell'altro e di perdersi insieme nello stesso abisso. Le tende estive vennero macchiate dal sudore caldo, ma nessuno dei due notò questi segni dell'amore. Al buio riuscivano a malapena a distinguere la sagoma dell'altro e a misurare lo spazio disponibile per non far franare le pile di scatole e gli appendiabiti nel fragore dei loro abbracci. Erano grati al vento e alla pioggia sui tetti che dissimulavano gli scricchiolii del pavimento, ma il galoppare dei loro cuori e l'impeto del loro ansimare e dei sospiri d'amore erano talmente assordanti che non si capacitavano di come l'intera casa non si svegliasse. All'alba, Joaquin Andieta uscì dalla stessa finestra della biblioteca da cui era entrato ed Eliza tornò esangue a letto. Mentre lei dormiva, protetta da diverse coperte, lui fece 2 ore di strada per scendere la collina sotto il temporale. Attraversò con cautela la città, senza richiamare l'attenzione della guardia, e giunse a casa giusto quando le campane della chiesa rintoccavano, annunciando la prima messa. Aveva progettato di entrare con discrezione, di rinfrescarsi, di cambiare il collo della camicia e di dirigersi al lavoro con l'abito bagnato, visto che non ne possedeva un altro, ma sua madre lo attendeva, sveglia, con l'acqua bollente per il mate e il pane vecchio tostato, come tutte le mattine. «Dove sei stato, figliolo?» gli chiese con tanta tristezza che lui non ebbe cuore di ingannarla. «A scoprire l'amore, mamma», confessò, abbracciandola raggiante.